È opinione diffusa che il tema della creazione abbia gradatamente visto diminuire la propria rilevanza all'interno della riflessione teologica. Così come in gran parte il tema è stato rimosso nella cosiddetta civiltà tecnologica, dove le vestigia hominis vogliono sostituire le vestigia dei. Ma credo che la consapevolezza di un mondo interdipendente e le questioni bio e ecoetiche in particolar modo sollecitino oggi la riflessione teologica a riprendere criticamente il principio creazione, anche per riconsiderare la questione del senso del fare dell'uomo e della sua destinazione. E quanto ci proponiamo di compiere in questo nostro intervento, dove affronteremo innanzitutto due questioni introduttive, basilari, relative alle espressioni natura e agire responsabile e sapiente. Dopodiché passeremo ad analizzare il contenuto biblico della teologia della creazione e il senso del dominio dell'uomo sulla realtà creata. Cercheremo poi di stabilire il significato che assume la fede trinitaria nella creazione in rapporto alla crisi etica e concluderemo individuando le prospettive di sviluppo di un'etica della responsabilità che venga a costituire concretamente per il cristiano il Vangelo della creazione. Quindi il nostro intervento sarà diviso in quattro parti, ciascuna delle parti in due punti. Inizio dalle questioni introduttive. Parto dalla questione relativa al significato di natura, o meglio ci chiediamo qual è il senso del nostro rapporto con la natura, tenendo conto che appunto noi siamo con la natura, siamo parte della natura. Credo che una risposta corretta a questa questione, a questa domanda, sia la base per la riflessione che qui dobbiamo compiere e a sua volta viene ad essere il quadro in cui si inserisce la successiva trattazione del rapporto fra teologia e bioetica che verrà sviluppato domani. Chiederci qual è il senso del nostro rapporto con la natura significa affermare che la persona umana, dico la persona umana, non è un robot di movimenti o un computer di informazioni. La persona umana non può limitarsi a guardare le cose dal di fuori, a descriverle o a ragionare su di esse, a fare biologia, o a manipolarle, a trasformarle, a fare biurgia, ma lasciandole però sempre e soltanto cose, cioè oggetto di uso e di abuso. Né tale evidentemente può considerare il corpo umano, il proprio e l'altrui. La persona umana può avere e ha un rapporto con queste che abbiamo chiamato così cose, perché la persona è capace di vedervi dei valori e scoprirvi dei significati. Una soluzione al problema del nostro essere con la natura non può venire direttamente da una indagine di tipo biblico, indagine del Nuovo Testamento, dove il termine physis non ha un particolare rilievo, non ha una particolare presenza di significato. Solo più tardi si è fatta sentire l'influenza greca nella cultura cristiana, nel senso di un accoglimento più ampio di questo termine, sia in un ripensamento che togliesse ogni rischio, in particolare il rischio del panteismo, sia in una armonizzazione con la dottrina della creazione. Per San Tommaso, poi, ed è qui che vorrei un momento soffermarmi, natura designa l'essenza specifica comunicata per mezzo della generazione, del generare. Designa però anche il principio generativo, principio generativo di ciò che è soggetto di un agire, di un patire determinati, e dunque è soggetto a nascita e a morte, soggetto ad accrescimento, soggetto a diminuzione. Natura è perciò la costituzione, la struttura, potremmo dire una serie di caratteristiche fondamentali radicalmente proprie, ma anche indica le funzioni e le attività che ne derivano. E poiché dall'origine queste sono sempre orientate verso un fine, non può esistere alcuna natura che non abbia un fine o che sia sprovvista di senso. Ogni natura possiede il suo posto nell'ordine delle cose che la ingloba. Dà il proprio concorso al dinamismo dell'universo. Si trova così ad essere indispensabile, certo, secondo la misura che le è propria, secondo la legge che la guida, perché sia assicurata la migliore armonia delle cose. Ecco, la natura come una totalità armoniosa. Difatti San Tommaso parla anche di nature al plurale. Cioè l'universo è una patria di nature estremamente diversificate, ciascuna con caratteristiche proprie, ma fra di loro ordinate. Vi è un movimento di sviluppo unico, inglobante, quasi un modello di natura superiore. C'è una legge generale che governa il movimento d'insieme, comanda l'acqua, l'aria, gli astri, le piante, gli animali, l'uomo. Ecco, così Tommaso non solo concilia natura e creazione, ma nella inclinatio naturalis, cioè nel dinamismo che muove la natura ad una autorealizzazione nell'ordine delle cause seconde, riconosce una impressio quaedam dei dirigentis ad finem. Questa soluzione che l'Aquinate sviluppa qui in modo particolare nella prima parte della Summa, questione 103. Dicevo, questa soluzione che concilia fra loro aristotelismo e cristianesimo, sappiamo che fu presto messa in discussione e contestata. Fra l'altro nel Rinascimento vi si oppose la filosofia della natura con la sua ispirazione panteistico-vitalistica. Poi la scienza moderna che opera un mutamento radicale. Per Galilei la natura è una grande macchina creata da un dio ingegnere attraverso l'osservazione dei fenomeni naturali, grazie al metodo sperimentale, l'uomo può imparare a leggere la lingua usata da Dio nella creazione. E così può conseguire un dominio che potremmo dire pratico-tecnico nella natura stessa. Perché, come scrisse Francis Bacon, alla natura si comanda solo obbedendo. Ma è soprattutto Cartesio che va qui ricordato. Sappiamo tutti che Descartes distinse fra l'uomo e la natura, fra res cogitans e res extensa. Scopo della scienza è quello di renderci signori e padroni della natura, così nel discorso sul metodo. Perché non esiste nulla di creato da cui noi non possiamo trarre qualche beneficio. In questa contrapposizione fra res cogitans e res extensa si fonda il progetto della modernità, di sviluppo della soggettività creatrice e dominatrice dell'homo faber. Però tutti conosciamo anche i prodotti perversi dell'accelerazione dello sviluppo provocato dalla modernità. E un esempio è l'odierna crisi ecologica. Allora, credo che sia la stessa episteme, cioè la forma del sapere, basata sulla distinzione soggetto-oggetto, che vada messa in questione. Ed è dunque necessario, anche da parte della teologia, ricercare soluzioni che superino questo rapporto squilibrato fra il soggetto, uomo, e oggetto, la natura. Non a caso, il rapporto finale della settima assemblea di Canberra del Consiglio Ecumenico delle Chiese, febbraio scorso, parla della teologia della creazione come di una sfida per i nostri tempi. E tra l'altro si dice accordi nell'affermare che alcune opinioni del passato hanno portato a un dominio e a un controllo che hanno distrutto la vita e a concezioni della natura che la vedono soggetta al possesso dell'uomo e a manipolazioni incondizionate. Ecco, il tema lo affronteremo meglio più avanti, qui era necessario accennarvi. L'accostamento corretto alla teologia della creazione è però possibile, credo, nella considerazione previa che la natura, quella che si distingue da noi e che è da noi trasformata, ma anche la natura che comprende noi e il prodotto della nostra opera nella natura, la natura, dicevo, è propriamente misteriosa. In che senso? Nel senso che possiamo saperne di più, ma non possiamo mai capirla pienamente, ma misteriosa ancor più nel senso che rientra nel Mysterion, il Mysterion di Dio che si è rivelato in Cristo, il mistero della sua volontà nascosto e ora manifestato, il mistero della intestazione di tutte le cose, nei cieli e nella terra, nel Cristo, capo del cosmo e della Chiesa, dono di Dio all'uomo, presente per l'uomo e tra gli uomini e nell'uomo. Perciò l'atteggiamento fondamentale dell'uomo di fede nei confronti della natura credo che dovrebbe essere come quello di Giobbe. Giobbe al capitolo 42. Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che senza aver scienza può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque, senza discernimento, cose troppo superiori a me, che io non comprendo. Una seconda precisazione, fondamentale, iniziale, riguarda il quadro di senso delle espressioni etica della responsabilità, peraltro indagine anche di altri relatori, e sapienza. Problemi morali inediti oggi sono sollevati dalla crescita della sfera del fattibile in campo biotecnologico. Essi includono uno studio prudente e paziente che sia altrettanto distante dal gusto effimero per la novità e dall'attaccamento inveterato all'abitudine. Richiedono un'etica della complessità. Qui complesso indica una percezione, la percezione della compresenza di molti fattori intreccianti e interagenti in ogni problema morale, tali da non potersi semplicemente isolare l'uno dall'altro, ma indica anche la percezione della necessità di inserire dall'interno, nell'intreccio delle componenti, un germe di ordinamento dinamico, cioè il passaggio dal caos alla complessità, e perciò di distinguere, di articolare, di unificare via via, in modo convincente e aperto, i vari diritti e le varie priorità in gioco, sulla base della consapevolezza viva dei fini. Una conseguenza dell'adozione di questo approccio è che le scelte etiche globali dovranno avere un carattere di elaborazioni collaborative fra le diverse competenze, che dovranno essere ricettive dell'esperienza vivente. Ciò potrà condurre alla formulazione di criteri di discernimento e di valutazione, più che alla prescrizione univoca delle modalità contingenti di comportamento empirico. Un'etica come dottrina della saggezza pratica, della quale c'è acuto bisogno sul piano morale, giuridico, politico. Si rivelano infatti insufficienti una retorica astratta del dovere o richiami generici al rispetto della vita, della terra, dell'ambiente, o una messa in guardia dei rischi di catastrofi che un agire irresponsabile può provocare. Invece è necessario porsi la questione seria del dovere di un agire responsabile che sia vivibile, sopportabile, condivisibile con tanti altri soggetti decisionali, ragionevole e non schiacciante, promozionale e non bloccante dei processi evolutivi dell'umanità. Tutto ciò è conseguenza diretta di una corretta teologia della creazione, come vedremo. È l'atteggiamento sapiente. Sapienza è non il puro rispetto alla vita biologica come tale, ma è attenzione al fine irrinunciabile della persona. Sapienza è uscire dalle strettoie casuistiche per considerare invece i fini umani, senza rinunciare alla tecnica, ma guidando la tecnica a rinunciare ad alcune cose per farne altre molto più importanti e più attinenti al vero sviluppo dell'uomo. Erano queste le prime precisazioni, queste questioni introduttive, natura e agire responsabile e sapiente. Il secondo punto, creazione e dominio, e lo sviluppo proprio in due parti, una prima parte sulla verità della creazione e una seconda che riguarda il dominio, il dominium terrae. È un discorso non facile, oggi specialmente, quello che proclama la fede nel Creatore e vi riconosce il fondamento della speranza e quindi dell'impegno dell'uomo. Che cos'è la speranza se non la risposta della vita alla vocazione della vita? Per esistere la speranza non dipende da quel che una persona è capace di fare da se stessa. La speranza va contra spem, dice Paolo ai Romani. Trascende ciò che è dato, è inseparabile da una fede. Ebbene, cosa dice la nostra fede nella creazione come fondamento della nostra speranza? E cioè del nostro impegno, della nostra responsabilità, della nostra lotta. Fra i tratti che caratterizzano la comprensione cristiana della natura, figura, come abbiamo già detto, il riconoscimento di essa come creazione da parte di Dio. L'Antico Testamento, che non conosce il termine natura, rifiuta di seguire il mito egiziano della creazione, secondo il quale le cose avrebbero avuto origine in un atto di generazione divina. La Bibbia non dà al sole il nome di figlio di Dio. Non si perde in speculazioni cosmogoniche. Non attribuisce l'inizio della vita a una divinità ermafrodita. Yahweh non crea generando, ma per mezzo della sua parola. Le creature sono sue creazioni, opere della sua volontà sovrana e libera. Ma il fatto che la Bibbia si apra con i racconti della creazione del mondo e dell'uomo non deve trarre in inganno. Ormai lo sappiamo bene. L'idea di creazione si è fatta strada lentamente nella coscienza di Israele. Annota Ravasi che l'idea di creazione non è una conquista facile nella teologia, perché lo splendore e il terrore sono due volti con cui si presentano sia Dio che la natura. A ben riflettere, la tentazione da una parte del naturalismo ateo e dall'altra parte la tentazione del panteismo sacrale sono sempre in agguato. La riflessione di Israele riesce però a superare questi rischi. E per mezzo del concetto di creazione, pur collegando strettamente fra di loro Dio e la realtà cosmica, ne afferma nello stesso tempo la differenza radicale. Inoltre, l'inserimento della fede nel Creatore, nella professione di fede storica nel Dio dell'Alleanza, fa sì che la creazione non sia che una tappa nel grande itinerario di salvezza che Dio sta tracciando nell'universo e nel tempo. Allorché Israele ha occupato la terra promessa, allorché Israele ha acquisito una certa stabilità in un luogo determinato, la garanzia di conservazione dell'alleanza, che fino allora era assicurata dall'idea di Dio come guida sicura, viene ad essere il riconoscimento di Dio anche come il Signore del tempo e delle stagioni, del cielo e della terra. Esiste prima di tutte le cose ed è artefice di tutte le cose. Prendiamo il Salmo 8. Di fronte al fascino di una notte stellata, ecco che sale la domanda, l'interrogativo direi perenne: che cosa è l'uomo? Di fronte al Dio che ha creato la terra e i cieli, che cosa è mai l'uomo? Verrebbe subito da rispondere una nullità. Vi è una reazione di sgomento nel confrontare fra di loro l'uomo creato e il Dio creatore. L'uomo mortale, fragile, figlio dell'uomo. Ma Dio si ricorda di lui. Dio ha cura di lui. La grandezza dell'uomo è scoperta dal salmista proprio attraverso la tenerezza e la fedeltà che Dio adotta nei confronti dell'uomo stesso. Quella nullità, quell'esile realtà che è l'uomo, si trasforma in una creatura grandiosa e insuperabile. Lo hai reso poco meno da Dio, si potrebbe quasi tradurre teologicamente il versetto 6 del Salmo 8, poco meno degli angeli, dice la traduzione ufficiale. L'uomo che ha una posizione regale, quasi divina, è immagine di Dio, dice Genesi 1, coronato di gloria e di onore. Il suo dominio sul creato ha i confini stessi del creato. Tutto è posto sotto i suoi piedi. L'approfondimento della esperienza dell'Esodo in tempo di esilio è quella che ha permesso di cogliere nel suo significato, direi più intimo, più profondo, la verità della creazione. La creazione è stata il primo esodo, il mondo che è uscito dal caos, nulla. È stato l'inizio dell'azione salvifica di Dio verso Israele, verso tutta l'umanità. Fra Dio e l'uomo e il mondo esiste una differenza abissale. L'uomo e il mondo dipendono da Dio, ma non si possono identificare con Lui. Sono appunto la sua creazione. Nei racconti della Genesi sulla creazione, con chiarezza risalta la dottrina sulla trascendenza di Dio. Il fatto che Dio sia totalmente e infinitamente diverso rispetto alla creazione significa che le creature sono appunto ciò che questa parola dice. Creature, soggette al loro creatore e Signore. È la parola creatrice di Dio che ha dato un nome ad ogni creatura, assegnandole una funzione. E venendo da Dio la creazione è buona. Non si tratta di bontà in senso morale, è la bontà dell'ordine, dell'armonia, del cosmo appunto. E Dio ama tutto ciò che esiste, dice la Sapienza, nulla disprezza di quanto ha creato. La dottrina biblico-teologica della creazione non parte dunque da una contrapposizione fra Dio e il mondo, ma piuttosto da una tensione immanente in Dio stesso. Dio crea il mondo e al tempo stesso lo compenetra. Lo chiama all'esistenza e insieme, mediante il mondo, manifesta la propria esistenza, fa notare Moltmann nel suo Gott in der Schöpfung, Dio nella creazione. Creati dallo stesso atto di benevolenza di Dio, gli elementi, gli astri, la terra, le piante, i pesci, gli animali, la specie umana, costituiscono dunque una comunità di creature. Direi che c'è una solidarietà di co-creature, c'è questa vasta oicumene. Significativo, come nel testo della Genesi, la benedizione per la fecondità è data negli stessi termini alla coppia umana e agli animali acquatici. Il comandamento del riposo del sabato deve portare vantaggio sia agli uomini che agli animali domestici. Il riposo comune dell'uomo e dell'animale è visto come un modo di rendere culto a Dio. Dicevo dunque, questa solidarietà. Dio però ha creato gli animali differenti, ciascuno secondo la propria specie, e all'uomo ha dato una responsabilità in ordine alla creazione. È chiaro che la fede biblica fa spazio alla storia dell'uomo, spinge ad eliminare il fatalismo e ad alimentare il senso di responsabilità. Ciò che la Genesi, ciò che Dio dunque propone all'uomo come scopo del suo agire conforme alla volontà del Creatore, è dunque quella che potremmo chiamare la creazione della cultura. Poiché l'uomo, e solo l'uomo, è stato creato a immagine di Dio, nell'esercitare il proprio compito di dominio, deve prendere a modello il modo con cui Dio stesso esercita il proprio dominio. Signore assoluto, il Creatore si volge verso l'insieme delle sue opere con un atteggiamento pieno di amore. Nell'atto creativo riconosce come bello e buono. L'uomo deve agire in maniera analoga. Ogni creatura deve portare il rispetto che le compete secondo la propria specie. È infatti per il bene della creazione, e dunque per il proprio bene, che l'uomo deve gestire la propria grandezza ed esercitare il proprio dominio. Ecco il dominio. Ecco qui il nodo della questione. Ed è questo allora il secondo punto di questa seconda parte della nostra riflessione. Di quale dominio si tratta? In Genesi 1:28 noi troviamo il verbo dominare unito a soggiogare. Kabas, soggiogare, indica la presa di possesso di un territorio. Benedetta da Dio, l'umanità è capace di generare e di moltiplicarsi fino a riempire la terra. Radà, dominare, indica il pascolare, il condurre, il guidare. È indicativo dell'uomo come pastore di tutti gli animali. L'uomo, maschio o femmina, immagine di Dio, è da Dio benedetto e gli vengono affidati terra e animali. Ecco, direi che questo è un fatto di grande importanza nel nostro discorso. Per Genesi, il rapporto dell'uomo con il territorio e con gli animali deve attingere a Dio i criteri del suo concreto dispiegarsi. Allora, non un dominio e un potere usurpati con una lotta e una prevalenza su Dio, come novelli Prometei. Non allora un uomo in cui è posto lo spirito assoluto e infinito, come vorrebbe il panteismo. Non un dominio conquistato dalle capacità personali dell'uomo, come proporrà l'umanesimo rinascimentale, illuministico o ateo. È il dominio donato da Dio all'uomo. Da Dio che, unico e solo, può chiamare l'universo opera delle sue mani. Agli umani è dato il dominio su quella natura che appartiene a Dio, ma che ora è in rapporto con Lui attraverso noi. Credo che sia senz'altro conosciuta l'interessante lettura che ha fatto Udo Krolzig della interpretazione di Genesi 1:28, Dominium Terre, interpretazione nella storia. Ecco, risulterà utile riassumerla in brevi tratti. In un primo periodo, sono i primi 10 secoli dell'era cristiana, il Dominium Terre viene interpretato in maniera statica. Si può parlare di una teleologia antropocentrica. La creazione è subordinata all'uomo, o comunque va riconosciuta la superiorità ontologica dell'uomo, perché essere intelligente, perché dotato di creatività e di azione. Poi, in un secondo periodo, i secoli dall'undicesimo al tredicesimo, si specifica e si sottolinea che il dominio dell'uomo sulla natura implica anche la cura di essa. Ecco, direi che qui siamo al nodo centrale del rapporto fra natura e cultura, l'equilibrio fra conservazione e dominio. Permettete che vi legga un breve testo dal Didascalicon di Ugo di San Vittore, un autore a me caro. Dice così Ugo di San Vittore: non è un fatto estraneo all'ordine generale del mondo che l'uomo soltanto venga alla luce inerme e nudo, mentre tutti i viventi dispongono per la loro protezione di armi e di difese, per così dire, nate con loro. Era giusto che la natura pensasse a quelli che non sanno provvedere da soli a se stessi. All'uomo, invece, fosse lasciato campo allo sviluppo delle sue capacità inventive. Egli è costretto a trovare, con l'esercizio della propria ragione, quei mezzi dei quali gli altri viventi dispongono per dono naturale. Inventando questi strumenti, piuttosto che possedendoli come doni della natura, l'uomo può rivelare meglio la sua grandezza. Però lo sviluppo delle umane capacità, lo sappiamo bene, non è a senso unico. Riveste modalità molto diverse. C'è l'atteggiamento rassegnato e fatalistico nei confronti della natura intangibile. E si arriva fino al comportamento del tutto dissacratore che si esprime nella logica del puro dominio. Interpretata in modo corretto, quella benedizione, perché sappiamo che di benedizione si tratta, data da Genesi 1:28 all'uomo, ha portato a una cultura fiorente, ha portato a una civilizzazione ricca e benefica, ma un dominio violento, irrispettoso, ha portato a tragiche conseguenze nel nostro ambito di vita e nell'ambiente esterno. Il dominio dell'uomo in realtà è vincolato e limitato. E capiamo bene in che senso. Lo specifico della natura umana sta nella razionalità, natura ut ratio, e perciò nella possibilità di conoscere le leggi naturali e di intervenire su di esse secondo quella finalità propria data dal Creatore e secondo dunque l'esigenza specifica avvertita dall'uomo nella concreta situazione. Natura cosmica e natura umana, nei loro reciproci rapporti e nelle loro differenze, fanno riferimento ad un progetto originario, quel progetto che ha la sua sorgente ultima nell'atto della creazione. Cito sempre da Ugo di San Vittore: la sapienza divina illumina l'uomo affinché possa conoscere se stesso. Egli, l'uomo, rimarrebbe simile alle altre creature se non riuscisse a comprendere di essere stato creato superiore a tutte. Ed allora la sapienza divina è desiderabile più di qualsiasi altra cosa, perché essa è la manifestazione del bene supremo. Nel periodo dell'umanesimo e del rinascimento, continua Krolzig, l'uomo arriva ad una nuova consapevolezza riguardo al dominium terre. L'uomo capace di creare il nuovo liberamente, secondo la propria volontà. L'uomo che si occupa di tutte le cose, viventi o non viventi, è a suo modo Dio, ha scritto Marsilio Ficino nella sua Teologia Platonica. L'uomo imita tutte le opere della natura divina e completa, corregge e migliora le opere della natura inferiore. Quindi il potere dell'uomo è simile a quello di Dio, perché l'uomo opera in questo modo da solo. Sapere è potere, dirà poi Bacon. Sapere è potere. Per mezzo della scienza e della tecnica l'uomo acquisisce potere. Il fine della conoscenza scientifica delle leggi di natura è il potere. Potere da esercitare sulla natura stessa. In questo modo si migliorano le condizioni di vita dell'uomo. Così si ricostituisce l'immagine di Dio nell'uomo, la signoria che è chiamato ad esercitare. E siamo così allora alla affermazione del dominio dell'uomo sulla natura, ma in forza poi di che cosa in concreto? In forza delle arti meccaniche. Nel discorso sul metodo, Cartesio, convinto che il potere dell'uomo si accresce attraverso le conoscenze fisiche e la loro applicazione. Come dicevamo all'inizio, siamo al dualismo uomo-natura, contrapposti, come soggetto e oggetto. La natura, estromessa dall'ambito della responsabilità etica, lasciata a disposizione dell'arbitrio dell'uomo, isolata come oggetto, contrapposta all'uomo soggetto. E così il cammino della conoscenza scientifica e del dominio tecnico della natura è sempre più diretto ad uno sfruttamento da parte della razionalità economica. Siamo di fronte a quello che si potrebbe dire una specie di culturalismo radicale, dove c'è sempre meno spazio per l'appello al dato naturale. L'uomo nega la propria appartenenza alla natura, la riduce ad un oggetto puramente esteriore, a sé estraneo, da sé alieno. Certamente è vero che la crisi ecologica del mondo moderno deriva anche dalle tecnologie impiegate nello sfruttamento della natura, ma credo che ancor di più essa affonda le radici nel desiderio di potere e di predominio dell'uomo. Così fa notare Moltmann e mi sembra di dover sottoscrivere questa affermazione. La oggettivizzazione scientifica della natura ha portato allo sfruttamento tecnologico da parte dell'uomo. Ma proprio gli esiti negativi delle manipolazioni, le controindicazioni derivanti dai processi di asservimento del cosmo, direi che sono una testimonianza di questa attuale situazione di disagio, che provoca allora che cosa? Direi che provoca una ridefinizione dei metodi, del senso e anche dei limiti dell'intervento umano nei confronti della natura. Di fronte a quella che si potrebbe chiamare una ribellione della natura, umana e cosmica, all'intervento radicalmente dominativo dell'uomo, che fare? Non si può certo tornare a una forma di animismo primitivo o di feticismo della creatura con un rifiuto pregiudiziale della scienza e della tecnica. Il dato naturale non va sacralizzato e l'uomo ha il dovere di trasformare la natura, ma è altrettanto vero che esistono delle infrastrutture originarie che esigono di essere rispettate. La natura appartiene alla stessa definizione dell'essere profondo dell'uomo. Perciò questa natura riconoscibile, dominabile, utilizzabile, dobbiamo imparare a capirla e a rispettarla essa stessa come natura. Afferma ancora Moltmann, questo ristretto campo di realtà che chiamiamo natura va elevato alla totalità dell'esistente, a quella che qualifichiamo come creazione di Dio. I problemi che attualmente sono posti dal progresso tecnico sappiamo che sono indicabili con due termini, il termine macro e il termine micro. Il problema macro è quello del degrado ambientale, degli effetti negativi procurati dal progresso tecnico, economico, produttivo. E così rischiano di essere compromesse le condizioni biologiche esterne per una buona vita della nostra generazione e di quelle future. Il problema micro è quello delle tecniche in grado di intervenire sui processi e meccanismi che stanno soprattutto all'inizio della vita, che è quella umana, fecondazione, gestazione artificiale, fino alla cosiddetta ingegneria genetica. A riguardo si aprono possibilità impensate, ma anche pericoli. Pericoli che mettono in causa le strutture biologiche più profonde e interne alla stessa esistenza umana. Ecco, la soluzione è legata alla ricerca di un nuovo equilibrio nei rapporti fra uomo e ambiente, fra natura e cultura. Non è in questione il dovere di plasmare il mondo, accreditando atteggiamenti così di un puro adattamento alla realtà. Piuttosto, si tratta di ripensare la relazione con la natura in termini dinamici, prendendo sul serio la radicazione dell'uomo nel mondo. E per i credenti questo significa recuperare il progetto della creazione. Cioè i cristiani e le chiese sono sollecitati anche dalla nuova situazione creatasi a rileggere il tema teologico della creazione e quello collegato delle realtà ultime. La verità della creazione dell'escaton è dunque alla base di un nuovo ethos della vita e dell'ambiente. E siamo così allora alla terza parte del nostro intervento. Dimensione trinitaria e cristologica della creazione. Qual è dunque il significato che assume la fede nel Dio creatore e nel mondo come creazione sua, se confrontata con questa crisi in cui ci dibattiamo? Cito ancora da Moltmann, il quale afferma che se si vedono soltanto il creatore e la sua opera, ma non si troveranno certo dei contatti. Ma se il creatore, la sua creatura e il fine verso cui questa tende sono considerati in chiave trinitaria, allora si dovrà ammettere che mediante il suo spirito il creatore abita in tutto il creato e in ciascuna creatura. E sempre in forza del suo spirito li tiene insieme e li mantiene in vita. L'intimo mistero della creazione è appunto questa inabitazione di Dio, così come l'intimo mistero del sabato della creazione è il riposo di Dio. Dunque, siamo qui al mistero divino della creazione e la Shekinah, la presenza o inabitazione di Dio. E il fine della creazione è trasformare l'intero creato in casa di Dio. Ecco, sono temi teologici questi, direi, straordinari, di una straordinaria importanza. Meriterebbero ben più di quella sottolineatura che faremo qui. L'universo, in tutta la sua bellezza e grandezza, manifesta la gloria del Dio Trino, sorgente di tutta la vita. Padre, Figlio e Spirito sono il principio e l'unico principio di tutto ciò che esiste, l'unico oceano della vita divina, posseduta totalmente dal Padre in maniera non ricevuta, totalmente dal Figlio come generato dal Padre, totalmente dallo Spirito Santo come procedente dal Padre e dal Figlio, è la sorgente unica di ogni azione ad extra dei tre. E la potenza creatrice, questa virtus creandi, esercitata dai tre, riproduce in qualche maniera l'ordine con cui essa è dai tre posseduta. E così, l'atto della creazione è una specie di prolungamento dell'agire trinitario. L'esistenza del mondo va compresa proprio alla luce della sublime realtà della vita intradivina, dove il Padre lascia spazio a colui che è come lui sul piano della natura eppure realmente distinto da lui, il Figlio, e dove i due non si chiudono nel reciproco faccia a faccia, ma nella fecondità e reciprocità del loro amore danno luogo ad un altro distinto, lo Spirito, che pure è uguale ad essi sul piano della natura. In Dio amore si dà infinita oblatività che si configura come generazione e come spirazione. Dinamismi questi che si situano sul piano della necessità di natura. Dio è così e costituiscono la premessa, premessa nel senso della condizione di possibilità rispetto ad ogni altra forma o maniera di dono della vita e quindi rispetto anche alla creazione, intesa come una venuta alla luce, nascita di ciò che non è di per sé necessario. L'oblatività della vita divina rende possibile l'esistenza dell'altro uguale, il Figlio, lo Spirito, e dell'altro non coessenziale e non consustanziale, la creatura. Il rapporto trinitario fra Padre, Figlio e Spirito è così ampio che l'intera creazione può trovare in esso spazio, tempo e libertà. E qui per inciso potremmo ricordare quella dottrina sviluppata da Isaac Luria e ripresentata dallo stesso Moltmann dello Zimzum, concentrazione e contrazione. Per creare un mondo al di fuori di lui, il Dio infinito deve aver dato spazio in se stesso a una finitudine, e solo il raccogliersi di Dio in se stesso garantisce quello spazio in cui egli può operare in forma creativa. Cioè potremmo dire che la autoumiliazione di Dio antecede il suo agire creatore ad extra, ne è un presupposto. L'amore creatore di Dio è fondato sul suo amore che si umilia, che si abbassa. Scrive ancora Moltmann, è appunto l'inizio di quella autoalienazione di Dio che Filippesi 2 considera come il mistero divino del Messia. Già per creare, Dio si è estrinsecato dalla sua onnipotenza e ha assunto da creatore l'immagine di servo. E così ha fatto spazio e ha trovato tempo per delle creature, che sono sì da lui distinte, frutto libero della sua fecondità e ricchezza di vita, ma inserite nel dialogo trinitario, chiamate a partecipare alla vita infinita e beata dei tre. E poiché lo Spirito è colui nel quale Dio Padre, per mezzo del Figlio, dona l'esistenza alle creature, e nel quale tutto viene ricondotto all'unità, lo Spirito è allora il garante della alterità, della libertà, della autonomia della creatura. Direi che questo è un dato teologico fondamentale e fondante sul quale non facciamo tutta la dovuta attenzione. Ed è la divina presenza dello Spirito nella creazione che ci unisce come esseri umani a tutta la vita creata. Siamo responsabili di fronte a Dio, dentro la comunità dei viventi, verso di essa. Potremmo dire che in un certo senso questo è il lato antropologico etico della creazione. E qui si potrebbe anche portare avanti un'altra riflessione che accenno soltanto, cioè quella che il creato esprime allora una presenza che va al di là del suo essere immediato, del suo essere fenomenico. Annuncia un altro rispetto a ciò che è in sé e per sé. In questa sua realtà visibile, dipendente dall'atto di creazione da parte di Dio, il mondo allora è in permanenza come un grande sacramento che insieme rivela e nasconde l'assoluto, quell'assoluto che l'ha originato e che lo sostiene nell'esistenza. E allora se sacramento, lo si potrebbe chiamare, questo mondo, una allocuzione che Dio rivolge alla creatura umana, un invito al dialogo con l'uomo, vertice del mondo creato. La parola detta da Dio non è una parola detta in modo impersonale, è rivolta all'uomo perché questi sia in grado, attraverso il mondo creato, di riconoscere e adorare colui che è all'origine di tutto. Nella fede cristiana la natura non è né la divinità muta e armoniosa dei greci, né l'eloquente e maligna realtà degli gnostici. La natura partecipa insieme all'uomo dello stato di creaturalità e insieme all'uomo soffre e gioisce, attendendo la rivelazione dei figli di Dio. E allora qui, in questa terza parte del nostro discorso, ecco che, oltre alla relazione fra Trinità e creazione, necessariamente va fatto un accenno alla centralità cristologica. L'opera redentrice di Cristo ha rinnovato non solo la vita umana, ma l'intero cosmo, tutte le cose create per mezzo di Lui e in vista di Lui. E così, in questo processo di riconciliazione, creazione e redenzione sono unite in modo indissolubile. Riconciliazione progressiva di tutte le cose in Cristo, in colui che appunto si è umiliato, incarnandosi e diventato parte di questo processo dell'universo. E così la natura è personalizzata. Personalizzata perché ha in Cristo le proprie radici e la propria salvezza. Se le creature sono state chiamate all'esistenza in vista di un ulteriore superamento di se stesse, se c'è un vero incremento nell'esistente creato, ciò è stato originariamente ed escatologicamente voluto nella prospettiva di Cristo, immagine del Padre e principio della nuova creazione. E così, allora, la creazione, dice Alfaro, è in piena verità un esistenziale cristico. E credo che qui, proprio in ultima analisi, si fondi l'atteggiamento di responsabilità nei confronti della natura. E arrivo così all'ultima parte, più breve delle precedenti, in cui rifletto un momento proprio sull'etica della responsabilità come Vangelo della creazione. Nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, Papa Giovanni Paolo II, fra i vari segnali positivi presenti nel mondo contemporaneo, ha registrato la maggior consapevolezza dei limiti delle risorse disponibili e la necessità di rispettare l'integrità e i ritmi della natura e di tenerne conto nella programmazione dello sviluppo. Ebbene, credo che proprio nel riconoscimento di tutta l'importanza di tale presa di coscienza e nella necessità di adottare modelli di sviluppo sensibili al rispetto delle esigenze morali, l'etica assuma oggi più che mai notevole importanza. E qui per etica vorrei intendere la riflessione ispirata a saggezza sul soggiorno dell'uomo, sul comportamento adeguato all'abitare dell'uomo. È venuta da Heidegger il richiamo alla originaria valenza cosmica dell'etica, più che alla motivazione di coscienza. Ethos, che dice relazione con il luogo in cui l'uomo vive, abita, si intrattiene. Certo, il punto di riferimento decisivo è l'umanesimo plenario, però l'attuazione di tale umanesimo reclama la necessità di un'attenzione più viva al rapporto uomo-natura, uomo-creazione. Ebbene, la rapidità di evoluzione, non soltanto questo, ma in modo particolare, direi che impone l'acquisizione di una attitudine di vigilanza permanente, unita ad un modo di pensare integrale, vale a dire una conoscenza che chiamerei di tipo partecipativo e una percezione globale. In altri termini, conoscere non per dominare, ma per partecipare. Non una conoscenza diabolica che divide e oppone per poter dominare, ma una conoscenza simbolica che riconosce il reale nella sua sussistenza originaria e nelle relazioni, come un cosmo. Invece di comunicare con la natura come un custode e un signore, l'uomo spesso si è comportato e si comporta come sfruttatore e distruttore, separando, contrapponendo, assolutizzando, agisce diabolicamente, anche all'interno di se stesso, sul proprio corpo. L'azione simbolica invece è quella che ridà unità, ricerca armonia, riconcilia. È solo nella solidarietà con il resto della creazione e nel comportamento responsabile verso se stesso e i propri simili e verso il mondo degli animali, delle piante, delle cose, che l'uomo può continuare a vivere come signore della creazione, senza diventare schiavo delle proprie manie di grandezza ed essere respinto dalla creazione stessa. Ecco, dire che l'uomo, e soltanto l'uomo, è in grado e ha il dovere di assumere tale responsabilità, significa affermare la verità di un creatore che ha dato la vita e ha creato l'uomo con una responsabilità per conservare e per rispettare ciò che oltretutto è elemento necessario per la sussistenza e per la vita dell'uomo stesso. Da un certo punto di vista, l'amore verso il prossimo vale allora anche per il nostro spazio vitale. Un rapporto distorto, corrotto tra persona e natura mette la natura contro l'uomo e l'uomo contro la natura. Incombe il pericolo di una antigenesi. Alcuni prodotti dell'uomo, e proprio quelli che contengono una speciale porzione della sua genialità e iniziativa, possono diventare mezzi e strumenti di una autodistruzione inimmaginabile. Il potere dato all'uomo all'inizio rischia di causarne la fine. La religione giudaico-cristiana direi che si armonizza senza violenza con questa nuova etica. Basti pensare nella Bibbia alle istituzioni del sabato, dell'anno sabbatico, dell'anno giubilare. Sono esempi di come riconciliare economia e ecologia, di come ridare vita alle persone e alla società. E poi fondamentale è evidentemente la nozione di alleanza, quell'alleanza universale di Dio con tutti gli uomini, alleanza in Noè, Genesi 9, che si riflette nella stabilità e nell'ordine del creato. A tutta l'umanità l'alleanza è promessa che il vivere sulla terra, nell'ordine universale, costituirà la benedizione del Signore. E allora è assai pertinente quella affermazione di Moltmann che se l'uomo e la natura vorranno sopravvivere sul nostro pianeta, scienze teologiche e scienze naturali devono affrontare insieme la crisi ecologica e insieme devono convertirsi. E una volta che le scienze naturali hanno mostrato in che modo la creazione vada intesa come natura, è compito della teologia far vedere come la natura vada compresa come creazione di Dio. Una forte difficoltà che ha l'uomo, l'uomo contemporaneo in particolare, è di non saper guardare la natura con lo sguardo di Dio. Vide che era cosa buona e molto bella. Non riesce a contemplare, non trova le parole per lodare, non è in grado di far cantare le creature, non sa condividere la gioia del suo Signore. La fede nella creazione può riuscire a capire e a rispettare il creato soltanto se riflette secondo la forma alternativa della conoscenza meditativa. È la conoscenza improntata allo stupore, alla meraviglia, all'amore. Con tale conoscenza noi non ci appropriamo delle cose, ma riconosciamo la loro autonomia e partecipiamo alla loro vita. Non vogliamo conoscere per dominare, ma per partecipare. Per conseguire l'atteggiamento di rispetto e di meraviglia, di lode e di ringraziamento, è necessaria allora una cultura della ascesi, che renda possibile agli uomini e alle diverse comunità umane il pieno conseguimento della libertà. Libertà intesa anche come capacità di rinunciare al potere personale per aprire uno spazio per gli altri. La creazione di questo spazio è un aspetto dell'amore per l'uomo, ma anche per Dio. Ed è qui allora indicata la necessità di una conversione a pensare a lungo termine. Ed è questa la mia conclusione. Pensare, sentire, pianificare unilateralmente a breve termine, nella nostra situazione rischia di condurre alla catastrofe. Non è cristiano il comportamento di chi si precipita avidamente ogni volta nel futuro immediato e si rifiuta di far nascere la domanda relativa ad uno scopo finale o ad un senso globale. Un tale comportamento è inconciliabile con la coscienza storica insegnata dalla Bibbia e con una responsabile presa a carico del compito che Dio ha affidato all'uomo in rapporto alla creazione. Ed è qui che si mostra necessaria una coscienza politica motivata da riflessioni ispirate non solo da un'etica della situazione, ma piuttosto dalla responsabilità che la fede cristiana invita ad esercitare per permettere la migliore continuazione della nostra storia. Grazie della vostra attenzione.